della settimana appena trascorsa abbiamo perlomeno un motivo per essere soddisfatti. Ronaldo ha ritrovato il sorriso. Ce ne informano le gazzette dopo che il celebre calciatore ha fatto una capatina prima a Barcellona per giocare in allegria una partita amichevole e poi a Ginevra per presentare un esclusivo cronografo prodotto a caro prezzo dalla proverbialmente sapiente microtecnologia svizzera. Ronaldo ha ritrovato il sorriso dopo giorni mesti. Domenica scorsa la sua squadra, l'Inter, aveva perso fra quelle mura che solitamente vengono dette amiche, ma che in occasione di una sconfitta non per la prima volta maturata puntualmente come fosse dettata per l'appunto da un cronometro svizzero, si rivelarono mura astiose quant'altre mai. È in ragione di ciò che l'idolatrato idolo delle masse dedite al calcio spettacolo venne fatto oggetto, anche lui come un calciatore comune e mortale, di male parole, insulti, gestacci e lanci di oggetti contundentissimi quando centrassero il bersaglio. Il bersaglio non fu centrato, ma la paura ci deve essere stata, e siccome dalla paura alla mestizia il passo più che breve è d'obbligo, ecco che Ronaldo ebbe perso quel sorriso che oggi per la serenità di noi tutti ha saputo ritrovare. Non vi sarà sfuggita, e se vi è sfuggita ve la riagguanto io, una notizia del giorno dopo che la dice lunga sulle leggi non scritte ma scrupolosamente applicate per governare le nostre coscienze. Esattamente il giorno dopo delle note contestazioni Ronaldo trapela dalla televisione alla stampa una notizia che avrebbe dovuto rimanere segreta. Ronaldo, ragazzo d'oro, nel senso di campione di bontà, di altruismo e di solidarietà umana, aveva donato 15 dei suoi tanti miliardi a favore dei profughi kosovari. Trapela e, nonostante tutte le precauzioni, fa il giro del mondo. Lui non conferma né smentisce, ma ci pensa l'incaricato di turno, quando è troppo tardi, ovviamente, per correggere il tiro. Eh sì. Sì, è vero, quanto si duole il tapino che a un simile atto di privata virtù sia stata data pelosa pubblicità. Sì, è vero, Ronaldo ha dato, anzi ha voluto dare, e ha dato dalla parte giusta, ovviamente, ma la cifra non si è mai autorizzati a dichiarare. La cifra è di molto inferiore a quanto è stato erroneamente affermato. E così vengono compensate le perdite nel mondo dei potenti. Una guerra, un'epidemia, una catastrofe qualsiasi è sempre pronta, bella e disponibile. E lo scivolone alla borsa valori del giorno prima viene recuperato il giorno dopo, con minima spesa, anzi, guadagnandoci.